GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Denunce di violenza e maltrattamenti archiviate o che finiscono in un'assoluzione, i dati del GOP di Trieste. Finti nipoti o forze dell'ordine, il variegato mondo delle truffe nel mirino di carabinieri e Trieste Trasporti. Scontro tra due auto a Fontana Fredda, un guidatore incastrato nell'abitacolo liberato dai vigili del fuoco. Agricoltura bio protagonista del contrasto agli effetti del cambiamento climatico in un convegno a Udine. La pluralità della musica di Jordi Savala apre al Verdi di Trieste la 93esima stagione della Società dei Concerti. L'Udinese pareggia in rimonta a Empoli e sblocca la sua classifica. Riugnaic deluso, ero convinto di una vittoria. 12:31 minuti, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. In apertura parliamo ancora di violenza contro le donne, la maggior parte delle vittime che intraprende percorsi giudiziari si pente di avere denunciato perché subisce quella che viene chiamata violenza giuridica. L'evidenza nei dati appena presentati dal Centro Antiviolenza di Trieste, GOAP. Durante il processo mi sono sentita presa di mira, anche dal giudice. Non mi sono sentita creduta né capita. Mi hanno trattata come se fossi io la colpevole. Sono le parole di alcune donne che hanno denunciato le violenze e i maltrattamenti del partner nelle aule di tribunale. Parole raccolte dal Centro Antiviolenza GOAP di Trieste, tra le donne da loro seguite, da cui il centro ha tratto attraverso interviste semistrutturate una serie di dati. Maria Grazia Pollonio, operatrice del GOAP. Quello che noi vediamo è ancora un numero elevato di archiviazioni delle querele presentate dalle donne, siamo circa sul 36%, che purtroppo è tanto, e invece un numero non ancora sufficientemente elevato di condanne per quanto riguarda i maltrattanti o i presunti tali, siamo circa al 31%. Perché avviene questo? Guardate, noi pensiamo che si tratti soprattutto di un fenomeno culturale, perché le norme esistono, però c'è ancora un'ideologia patriarcale molto viva che forse impedisce l'applicazione corretta di queste norme. Due riforme sono intervenute, la Cartabia e la Roccella, nel corso del 2023. Cosa è cambiato con queste? Dunque, per quello che possiamo vedere in tempi ancora ristretti, per cui possiamo solo dare delle indicazioni ancora, vediamo che in effetti alcuni miglioramenti sono avvenuti. Per esempio, abbiamo più provvedimenti di tutela che permettono proprio una prima protezione delle donne e dei loro figli, dati in tempi brevi e anche poi durano nel tempo. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è stato un miglioramento. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Solo dall'inizio di quest'anno i carabinieri di Trieste hanno contato in circa 300.000 euro il valore di truffe consumate o tentate. Oggi un incontro formativo dell'Arma con Trieste Trasporti per spiegare come reagire e difendersi. C'è chi si spaccia per nipote e chi per appartenente alle forze dell'ordine. Ci sono le truffe online, quelle telefoniche e quelle che bussano direttamente alla porta di casa, per esempio con la scusa di controllare bollette e contatori. Una quindicina quelle catalogate sul sito dell'Arma dei Carabinieri. A conti fatti raggiri tentati o riusciti per centinaia di migliaia di euro, anche a Trieste. Gianluca Migliozzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste. Per la parte di competenza, appunto, che riguarda l'Arma dei Carabinieri, come casi denunciati tra il 2023 e il 2024 sono pressoché costanti. L'azione di contrasto è stata molto più efficace rispetto al 2023 perché ci ha permesso di identificare un 30% in più di coloro i quali hanno posto in essere questi comportamenti, questi veri e propri reati. Complessivamente abbiamo stimato un danno di circa 300-500.000 euro. Vittime principali sono gli anziani, che a Trieste rappresentano una componente importante della popolazione. Di qui la campagna di sensibilizzazione che vede la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e di Trieste Trasporti. Due spot di 10 secondi l'uno che verranno trasmessi fino a giugno alla Luminosa di Via Carducci e sui mezzi. Abbiamo mutuato qui su Trieste una campagna nazionale che l'Arma dei Carabinieri sta già facendo tanti anni. Speriamo davvero che parlandone, si riesca a entrare nei cuori di ogni famiglia e che tutte le persone in caso di dubbi chiamino il 112. I carabinieri, le forze di polizia, nessuno chiede soldi. Già su questo è importante, un messaggio trasversale, bisogna insospettirsi. Per quanto riguarda invece il piano investigativo giudiziario? Secondo noi ci sono delle vere e proprie organizzazioni. Per quanto attiene, ripeto, i casi risolti dall'Arma dei Carabinieri sono singoli casi isolati di soggetti prevalentemente italiani che pongono in essere questi delitti però da fuori regione. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: una squadra dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta questa mattina poco prima delle 7:30 in strada della Libera Fontana Fredda per un incidente stradale con due auto coinvolte. Uno dei guidatori era rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico, hanno creato un varco tra le lamiere da dove hanno estratto il ferito insieme al personale sanitario che poi ha preso in carico l'uomo. È stata quindi completata la messa in sicurezza dei veicoli e l'area del sinistro, sul posto la polizia locale. L'economia, con il tavolo degli investimenti per l'anno prossimo presentati ieri dall'acciaieria Arvedi, che ha uno stabilimento anche a Trieste. Dopo un periodo di incertezza e l'annuncio dello stato di agitazione da parte dei lavoratori della minatoia Arvedi e la stessa società siderurgica a comunicare la ripresa del programma di investimenti previsti per il 2025. I sindacati temevano l'introduzione di nuove politiche di austerità a carico dei dipendenti, invece la società di Cremona ha deciso di puntare su acquisizioni di prodotti dal mercato estero, probabilmente extra UE, a prezzi più competitivi, e sulla produzione di acciaio green, che include investimenti nelle tecnologie di decarbonizzazione. A delineare il futuro dello stabilimento è stato un incontro tra sindacati e proprietà, la presenza del CEO Mario Caldonazzo e dei responsabili delle controllate. Arvedi ha confermato un investimento di 3 milioni di euro per la realizzazione di nuovi spazi, tra cui palazzini, uffici, spogliatoi, docce e una mensa. I lavori sono previsti tra gennaio e agosto 2025. Sono stati inoltre risolti i problemi legati al nuovo piano della viabilità e dell'accesso al sito, che inizialmente avevano suscitato perplessità nella società, preoccupata che il progetto potesse mettere a rischio l'attività della minatoio. Il piano è stato rivisto. In aggiunta saranno incrementati i turni di lavoro per raggiungere l'obiettivo di aumentare l'attuale produzione fino a 600.000 tonnellate di prodotto trasformato. La delegazione sindacale di FIOM, WILM e FAELMS ha auspicato che il piano industriale proceda rapidamente e ha richiesto all'azienda di istituire un tavolo tecnico per aggiornare la RSU sull'avanzamento dei lavori infrastrutturali. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Udine per il prossimo triennio 2025-2028 è la dottoressa Anna Maria Bergamin Bracale, prima presidente donna dell'Ordine a Udine e già vicepresidente uscente. Ha al suo posto, con la carica di vice, l'ex presidente Gianluigi Tiberio. Bergamin è chirurgo otorino-laringoiatra al Santa Maria della Misericordia di Udine, responsabile dell'unità di chirurgia della tiroide, madre di 4 figli, impegnata nel sociale. L'agricoltura biologica e lotta al riscaldamento globale, se ne parla al convegno organizzato da AIAB ed ERSA, la Fondazione Friuli di Udine, a cui partecipa anche il climatologo Filippo Giorgi, direttore della sezione di Scienze della Terra dell'ICTP di Trieste. C'è poco da essere soddisfatti per l'esito della COP29, secondo uno degli scienziati mondiali più autorevoli sul cambiamento climatico, Filippo Giorgi. La conferenza delle Nazioni Unite di Baku, in Azerbaijan, ha decretato un fondo da 300 miliardi per aiutare i paesi più poveri a spingere sulla transizione verde, somma ritenuta inadeguata da molti. Dal punto di vista dell'impegno delle nazioni per la diminuzione delle emissioni, direi che è andata abbastanza male. Si è creato questo fondo per i paesi più poveri, che è sicuramente qualcosa di utile, anche se, come ho sentito, molto insufficiente rispetto a quelle che erano state le richieste. Purtroppo le ultime COP sono state delle grandi delusioni. Giorgi ha parlato durante un evento su agricoltura biologica e cambiamento climatico, fenomeno che mette sotto stress i campi. Chiaramente l'agricoltura deve adattarsi a queste nuove condizioni, a periodi secchi molto più lunghi, periodi caldi molto più lunghi, risorse idriche più irregolari. Agli effetti del surriscaldamento della terra, però, l'agricoltura biologica riesce ad adattarsi meglio, secondo Camilla Monen, ricercatrice della Sant'Anna di Pisa. L'agricoltura biologica è più propensa ad adottare alcune tecniche di diversificazione culturale, di ricerca a varietà più adatte alle condizioni locali, e questo aiuta a rispondere alle sfide del cambiamento climatico. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Confagricoltura Friuli Venezia Giulia e AgriSoluzione organizzano l'incontro dal titolo Mais, una coltura alla riscossa, oggi alle 15 al Consorzio Agrario di Basiliano. Saranno approfonditi una serie di temi attorno a questo cereale così importante per l'economia rurale e le filiere zootecniche regionali. Secondo l'Istat, nel 2005 in Friuli Venezia Giulia sono stati seminati oltre 53.000 ettari di mais per un raccolto pari a quasi 6 milioni di quintali di granella, ma nel 2024 le semine si sono fermate a poco più di 35.000 ettari per un raccolto di soli 3 milioni 700 mila quintali di seme. 12:41 il meteo, il cielo è prevalentemente coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 12:30, a Gorizia 10:30, a Udine 9:05, Pordenone 7:05. A Tolmezzo e Tarvisio 6:30, a Forni di Sopra e Piancavallo 5:05, Sappada 2:05, sul Monte Lussari 3:30 e sul Monte Zoncolan 2:05, sulla costa Grado 9:30 e a Lignano 9:00. Non solo navi, l'Istituto Nautico di Trieste da oltre un secolo prepara le professioni del mare da 23 anni. Ha anche una sezione di aeronautica che prepara piloti, controllori di volo, meccanici e personale dell'aviazione civile. Da qui si spicca il volo, proprio in senso letterale. L'Istituto Nautico di Trieste è una delle scuole superiori d'eccellenza del nostro territorio. Qui si diploma chi da secoli va per mare, ma dal 2001 anche chi ha la testa tra le nuvole, perché da 23 anni è attiva una sezione di aeronautica che prepara con successo piloti, controllori di volo, meccanici e personale dell'aviazione civile e militare. Il programma del triennio è molto specializzato. Franco Padalino, professore di tecniche del volo. Sul monte ore totale siamo a circa il 50% di materie tecniche professionalizzanti, e la materia principale è scienza della navigazione, dove ovviamente studiano come si conduce un aeroplano, dalla meteorologia alla pianificazione volo all'esecuzione del volo, principi dell'aerodinamica, facciamo propulsione, le manovre, la meccanica del volo dell'aeroplano, e poi la logistica e tutta l'organizzazione del volo dall'aeroporto di partenza a quello finale, trasportando merci e passeggeri con supporto di diritto e di inglese. Ancora poche ma molto motivate le ragazze. Questa scuola non ha genere, perché come potete vedere comunque siamo abbastanza ragazze, anche se in realtà nella scuola in generale siamo poche in tutte le sezioni, però la sezione aeronautica secondo me ha comunque un futuro nell'aeronautica in generale per le donne, perché non è più un tabù, ecco. L'istituto, che ha anche corsi post-diploma, sogna però un convitto per attrarre studenti da fuori regione e ancora più da fuori provincia. Attualmente chi viene nel Friuli è costretto a svegliarsi prestissimo. Francesco Fazzari, dirigente scolastico. Serve una struttura ovviamente, ma tanta buona volontà che a mio avviso può essere trovata per permettere agli studenti di questa regione, di tutta questa regione, non solamente, di poter usufruire dei servizi di una scuola così prestigiosa come il nautico e l'aeronautico. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora gli spettacoli con l'emozionante concerto di Jordi Savall ieri sera al Verdi di Trieste. Un intreccio di musiche strumentali arabo-andaluse, giudaiche e cristiane, un viaggio nelle tradizioni mediterranee, un dialogo di musiche che diventa dialogo di anime. Non poteva che avere un debutto così intenso e coinvolgente la 93esima stagione della Società dei Concerti di Trieste. Protagonista dell'evento Jordi Savall, violista di fama mondiale ma anche ambasciatore dell'Unione Europea per il dialogo culturale e ambasciatore UNESCO per la pace, che al Teatro Verdi ha dato vita a un vero e proprio manifesto delle pluralità musicali. Sì, sentiamo che le musiche giudee, le musiche arabo, le musiche cristiane hanno tutte la stessa qualità e nessuna differenza. Dunque perché cercare di fare male a altre culture quando noi abbiamo tutte una qualità fondamentale che è l'essere umano, che è di essere capabile di fare della bellezza e con la bellezza di riuscire all'amore e alla cordialità entro gli esseri umani. E questa è la cosa fondamentale, ma per questo si deve educare i bambini, si deve, dall'inizio della vita, si deve far sentire che la musica è il linguaggio che permette di dialogare con le culture più lontane possibile. Un viaggio attraverso le antiche tradizioni bizantine, berbere e afghane che ha emozionato la platea. Saval si è esibito in trio con il musicista turco Hakan Güngör e con il percussionista greco Dimitri Psonis. Musiche venute da epoche e da terre diverse, ma straordinariamente vicine e che, in questa fusione, dimostrano che la diversità non è necessariamente un preludio all'ostilità. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà la Serbia con le sue registe ad essere protagonista della sezione Wild Roses del Trieste Film Festival, che si svolgerà dal 16 al 24 gennaio del prossimo anno con la sua 36esima edizione. Questo spazio, dedicato alle cineaste dell'Europa centro-orientale, sarà curato dal regista Stefan Ivancic, produttore membro del comitato di selezione del Festival di Locarno, con lo scopo di promuovere le nuove prospettive femminili provenienti dalla Serbia contemporanea, dopo che il focus è stato rivolto negli anni scorsi a Polonia, Georgia, Ucraina e Germania. Al Visionario di Udine torna il ciclo Film ad Alta Quota ogni martedì alle 20 fino al 17 dicembre. Tutte le proiezioni saranno introdotte dalla giornalista Melania Lunazzi. Si comincia con Fiore Mio, primo film scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti, autore anche delle Otto Montagne, da cui era stato tratto l'acclamato omonimo film, che racconta in modo intimo, introspettivo e non scontato la sua montagna, il Monte Rosa. 20 anni di esperienza di lavoro in comunità di recupero per le tossicodipendenze. In un libro l'autore Marco Anzolino, pordenonese, educatore, musicoterapeuta in alcune strutture del veneziano, che racconta i ragazzi della strada accanto a Paolo Colombatti della TGR Veneto. Ho scritto questo libro per raccontare a tutte le persone che non conoscono chi sono i ragazzi che vivono in una comunità, questo mondo di emozioni. Marco Anzolino fa l'educatore in comunità terapeutica. Da 20 anni si confronta con la droga e con i ragazzi e le ragazze che provano a uscire dalle dipendenze. La sua esperienza la racconta ora in un libro utile a chi vuole capire come è cambiato quel mondo e chi adesso lo frequenta. 20 anni fa, quando ho iniziato questa professione, avevo davanti a me solo uomini sulla quarantina. Oggi, 20 anni dopo, in comunità ci sono sia maschi che femmine e molti sono minorenni, entrano in comunità molto presto, e questo racconta la velocità con cui riescono a reperire le sostanze. Oggi anche sul dark web, online, con consegna a domicilio, è come se acquistassero un frullatore. Il libro I ragazzi della strada accanto, edito da Biblioteca dell'Immagine, si articola in 11 lezioni dove maestro e allievi si scambiano esperienze e cercano percorsi da fare insieme. Tra le pagine incontriamo famiglie disfunzionali, adulti irresponsabili e ragazzi che chiedono aiuto. Il loro più grande bisogno è il limite. In un mondo in cui i giga sono diventati illimitati, il limite ti dà sicurezza, ti dà certezza e ti dà contenimento. È un po' come nel gioco, prova a immaginare una partita di calcio senza che il campo venga delimitato e senza arbitro. Non ci sarebbe gioco, non ci sarebbe divertimento. Noi abbiamo fatto un po' questo, abbiamo distrutto il gioco, abbiamo tolto il divertimento. È uscito un nuovo gioco da tavolo che celebra il Friuli Venezia Giulia con ironia e cultura. Si chiama Frico Bestiale, sarà presentato alla Ludoteca Comunale di Udine oggi pomeriggio alle 17.30. Si tratta della nuova versione del gioco da tavolo Frico, uscito 10 anni fa e che però metteva in competizione solo le province di Trieste e Udine. Questa nuova versione è più ampia, ci dice di più l'ideatore del gioco, Diego Manna. Volevamo coinvolgere tutta la regione, quindi anche Gorizia e Pordenone, che nella prima versione erano assenti, e volevamo un gioco più veloce, più semplice, più facile anche da imparare. Come funziona? Si sceglie quale popolazione rappresentare, al momento sono 6, ma stiamo già lavorando a delle espansioni per coinvolgere anche i muggesani, così magari se qualcuno si sente ancora più, ha un'identità ancora più particolare. Scegli la popolazione, dopodiché sei coinvolto in 5 battaglie culturali regionali, giochi con le carte che rappresentano vari elementi delle nostre tradizioni e alla fine della singola battaglia chi fa più punti vince quella battaglia e piazza il proprio soldato sul tabellone. Ci sono 5 battaglie, chi vince più battaglie e conquista più artefatti vince il dominio della regione. Sappiamo che ci sono più friulani e giuliani all'estero che in Italia. Avete mai pensato di lanciarlo anche nel resto del mondo, magari tramite Focolars Furlan? Esiste la carta Focolars Furlan e tra l'altro è associata alle rondini, perché ogni carta è associata a un animale caratteristico della nostra regione che abbia delle caratteristiche che facciano pensare proprio al tema della carta. E in effetti penso che questo gioco qua, Frico Bestiale, piacerebbe a chi è all'estero, così e ha il piacere e la voglia di scoprire un po' le proprie tradizioni. E adesso andiamo allo sport e al calcio. Un punto guadagnato dai bianconeri ieri nel posticipo di Serie A. Empoli Udinese, i friulani sotto di un gol rimontano nella ripresa 1-1 il risultato finale del match dopo 3 sconfitte di fila. L'Udinese torna da Empoli con un punto e qualche rimpianto per una partita raddrizzata nel finale che forse poteva portare anche qualcosa in più. Gara abbastanza bloccata in avvio, con un brivido al quarto d'ora, un cross svirgolato di Colombo che sbatte sulla parte alta della traversa, la prima vera occasione per l'Empoli di Cacace e Okocie la neutralizza senza difficoltà. Appena un minuto più tardi l'Empoli sblocca il risultato, filtrante di Cacace per Pellegri che è rapidissimo nel girarsi al limite dell'area e calciare forte con il destro verso l'angolino basso, superando un Okocie in questo caso non proprio perfetto. Reagisce subito l'Udinese, Vasquez respinge una conclusione di Toven che poi ha un'altra chance nel traffico senza trovare lo specchio della porta. Nel secondo tempo Runjajc cambia tattica passando alla difesa a 4 e aggiunge un uomo in attacco. L'Udinese protesta per un mani in area di Cacace, per l'arbitro e per il VAR però si può giocare, decisione che l'allenatore tedesco nel dopo partita commenta con l'ironia. The similar situation in Venice. So Venice and Empoli are two different. Abbiamo avuto una situazione simile a Venezia. Qui ad Empoli è stata fatta una valutazione diversa. Quindi forse in due luoghi diversi ci sono due regole diverse. Dobbiamo accettare le decisioni, come sempre. Però il rigore ci poteva stare e in quel caso la dinamica della partita sarebbe cambiata. And then you know it changed the dynamics of the games. Per raddrizzarla ci vuole un lampo, quello attivato da Lovric con un corner che Davis finalizza di testa entrando sul primo palo. A quel punto manca un quarto d'ora e i friulani provano anche a vincere. Il loro forcing perde però di intensità con il passare dei minuti e l'1-1 alla fine non lascia Runjajc per niente soddisfatto. Nel primo tempo le due squadre hanno giocato allo stesso livello e non a un livello alto, ma nella seconda frazione noi abbiamo giocato meglio. Abbiamo dominato completamente, ma non siamo riusciti a segnare due gol. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Riccardo Stoic, Samuel Montalto, in redazione ha collaborato Samantha Gonda, Francesca Terranova e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.